24 mattino. Alle 8:19 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, parliamo di economia. Soldi e dintorni. E allora ritrovo Deborah Rosciani. Buongiorno. Ciao, sì, già. Buongiorno. Mi sono preannunciata con colpi di tosse. Con i colpini di tosse. Non erano andati in onda, credo, forse. Invece no, mi sta... no, tecnico, ecco, mi dice di no. Volevo coglierlo, sei, in castagna, invece non ci sono riuscita. Ti sei fregata da sola. Ti avevamo salvato spegnendo i microfoni. Buongiorno. Buongiorno. Allora, parliamo, come detto, di prodotti finanziari, sì, delle nuove regole in arrivo in un settore molto, molto ben delicato, da monitorare. Esatto, sì. E anche più volte disciplinato dal punto di vista legislativo, ma forse evidentemente ancora con non troppo successo. Allora, volevo iniziare leggendo ai nostri ascoltatori quanto ha scritto ieri il collega della Stampa, Glauco Maggi. Al recente G20 di Londra, la trasparenza finanziaria è entrata nei comunicati ufficiali come condizione per voltare pagina, per non ricadere più in una depressione causata dall'avidità dei banchieri e dall'ignoranza del pubblico. Bei propositi, ma la strada verso la chiarezza informativa non è agevole. E eccoci allora al tema di questa mattina. Un tema che, lo dico subito, non è semplicissimo, però riteniamo che sia bene spiegare agli ascoltatori tutti quei piccoli grandi cambiamenti che avvengono nella disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, perché gli italiani sono dei grandi risparmiatori ed è bene che sappiano cosa dovranno aspettarsi nei prossimi mesi da quei luoghi che predispongono i prodotti finanziari e assicurativi. Il tema è che il nostro ordinamento sta recependo una nuova direttiva comunitaria europea, si chiama Transparency, quindi trasparenza, e ha l'obiettivo, in un'ottica comunitaria, di omogeneizzare il mondo degli strumenti finanziari. Allora, stamattina ci aiuta a capirne qualcosa di più l'avvocato Luca Zitiello, dello studio Zitiello e Associati. Avvocato, buongiorno, tra l'altro bentornato a Soldi e Dintorni. Buongiorno a voi. Allora, lei ci deve aiutare in un compito arduo. Per prima cosa, non dobbiamo mandare di traverso la colazione ai nostri ascoltatori con questo argomento. Quindi cerchiamo subito di capire in che modo il nostro paese sta recependo questa direttiva comunitaria e quanto è importante questa novità. Sì, questa direttiva in effetti è molto importante per una serie di motivi. Il primo dei quali, perché detta una disciplina comune sui prospetti informativi, ossia su quegli strumenti che garantiscono la trasparenza sui prodotti finanziari. Quindi il principio fondamentale è che finalmente un prospetto approvato in uno Stato membro, come può essere la Francia o la Germania, trova poi diretta applicazione in Italia mediante la mera traduzione in italiano del prospetto approvato dall'autorità di quel paese. Inoltre, detta una semplificazione dell'informazione finanziaria volta a una sua maggiore intelligibilità da parte dei risparmiatori. Il punto in cui questo si vede con maggiore evidenza è quello nel quale il prospetto informativo, che i risparmiatori sanno bene essere un elemento corposo, cioè fatto di moltissimi fogli, e quindi a volte difficile non solo da leggere ma proprio da terminare di leggere perché è molto lungo, viene previsto sostanzialmente un documento la cui consegna è obbligatoria all'investitore, che è la nota di sintesi. La nota di sintesi è un documento fatto di 6-7 pagine dove in breve vengono riassunte tutti gli elementi caratteristici dell'investimento. Ecco, avvocato Zitiello, ci può fare due o tre esempi di prodotti di investimento che saranno, come dire, tra i più diffusi oggetto di questa novità? A quali sarà legata questa sintetica nota informativa? Tanto per citare appunto qualche esempio. Esatto, beh, sicuramente un prodotto che è molto diffuso tra i risparmiatori in Italia sono i fondi di investimento. Quindi nei fondi di investimento il prospetto informativo verrà sostituito dal cosiddetto prospetto semplificato, dove verranno date delle informazioni di carattere generale, delle informazioni di carattere particolare rispetto al singolo prodotto, con evidenziazione anche di una voce che è chiaramente molto cara ai risparmiatori, che sono i costi, al fine quindi di dare in poche pagine una chiara rappresentazione di dove si va a investire, del grado di rischio, delle caratteristiche di investimento, della durata dell'investimento e così via. Quando sarà operativo, avvocato, tutto questo? Ci saranno dei tempi ancora lunghi, perché oltre al governo, che ha già recepito con un decreto legislativo la normativa, anche altri organismi devono intervenire, anche la Consob, l'autorità che vigila sul mercato, ha già fatto il suo dovere, quello che doveva fare? Sì, ha emanato recentissimamente un regolamento che in parte è già entrato in vigore, diciamo definitivamente a regime entrerà in vigore dal 1 luglio, e quindi in poco tempo avremo a disposizione la nuova normativa, che peraltro contiene altri punti di notevole interesse, che è quella dei casi in cui questa normativa non trova applicazione, cioè c'è una modifica del cosiddetto regime di esenzione. Cioè ci sono degli emittenti che saranno esentati dalla pubblicazione di questo prospetto semplificato? In parte sì, gli emittenti, ma soprattutto le novità sono sulla base della quantità di prodotti che si emettono. Due esempi per tutti. Rapidissimo, perché abbiamo 30 secondi, avvocato, la ringrazio. Sì, con riferimento ai prodotti più comuni, come quelli dei fondi e delle polizze a contenuto finanziario, il limite passa da 50.000 a 250.000 euro. Quindi solo per i tagli superiori a 250.000 euro non ci vorrà il prospetto, e questo dà una maggiore protezione. Avvocato, io la ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina. In realtà ci ha reso abbastanza semplice la questione e la novità. Lo dice anche Alessandro Milan, per cui siamo contenti. Sembra che notoriamente. Sei il nostro utente tipico, certo, naturalmente, certo. Per certi temi, come io lo sono per te e per tanti altri di cui non conosco. Ma certo, non facciamo così, che poi la gente ci scrive e dice che litighiamo. Che pensa che litighiamo, che sì, è vero, incredibile. La cosa più assurda. Va bene. Bene, allora, tra poco Salva Danaio alle 12. Salva Danaio, ritorniamo sì sulla consulenza, sui prodotti finanziari, come si sono mossi in questa fase di crisi i promotori finanziari. Le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Il presidente della Camera Fini ha espresso la sua contrarietà al ministro all'interno Maroni per la norma contenuta nel disegno di legge sicurezza che impone la presentazione del permesso di soggiorno a chi chiede una prestazione pubblica, compresa l'iscrizione a scuola, e che verrebbe così negata ai figli degli immigrati non in regola. Stamattina è previsto un vertice di maggioranza su questo tema. Il governo tedesco apre all'ipotesi di accordo Fiat-Opel. Il ministro all'economia tedesco giudica interessante il piano illustrato ieri a Berlino dall'amministratore delegato del Lingotto Marchionne, e in borsa la Fiat guadagna oltre l'8%. Un altro studente è stato accoltellato dopo una lite avvenuta a Monte Rotondo in provincia di Roma. Un 16enne ha ferito un coetaneo nei bagni di una scuola e il sindaco di Roma, Alemanno, punta il dito anche contro la TV. Alcune fiction come Romanzo Criminale, dice, hanno promosso atteggiamenti e modi di fare sbagliati. Infine il calcio, stasera si scoprirà la prima finalista di Champions League, in programma il ritorno delle semifinali Arsenal-Manchester United, si parte dall'1-0 all'andata per il Manchester. E allora 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. 30 anni di lotta alla mafia, 30 anni in prima linea, 30 anni al fianco anche di magistrati come Falcone e Borsellino, ma non solo. Sono tutti condensati in un libro che è uscito da poco per Sperlin e Kuffer, il titolo è Per non morire di mafia, l'autore in una lunga intervista ad Alberto La Volpe, l'autore è Pietro Grasso, il procuratore nazionale antimafia, che è nostro ospite oggi, che saluto. Procuratore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, procuratore, poi parliamo ovviamente di questo libro molto denso, perché come scrive lei anche nella quarta di copertina, della mafia bisogna parlarne, perché il silenzio è l'ossigeno di cui si nutre la mafia. Ha sentito che c'è questo decreto legge sicurezza in discussione oggi alla Camera, e c'è una norma, la cosiddetta norma anti-racket, che ha fatto discutere. C'era una norma in origine che prevedeva l'esclusione dagli appalti per le imprese che non hanno denunciato, anche solo non hanno denunciato il tentativo di richiesta del pizzo, un po' come sull'onda di Confindustria Sicilia, che dice chi non denuncia è fuori. La norma è stata un po' modificata, qualcuno dice annacquata, con un emendamento. Ci vuole il rinvio a giudizio. Il ministro Maroni ha detto attenzione, c'è una lobby che difende queste cose, ora si tenta di tornare indietro. Lei che ne pensa? Ma io penso che un imprenditore che ha un appalto pubblico e paga il pizzo è uno che decide di far da tramite tra il denaro pubblico, quello dei cittadini, e le cosche mafiose, nel senso che quel denaro pubblico doveva essere destinato a un'opera pubblica, invece va certamente a persone diverse. E quindi questo intanto è il principio che si vuole combattere. Il secondo punto è quello che si voleva forse dare una norma per che gli imprenditori abbiano una sorta di scudo, nel senso che, come avviene e è avvenuto per i sequestri di persona col blocco dei beni della famiglia del rapito, si pensa che se si dice alla mafia se ti pago e non denuncio io perdo il lavoro, quindi non posso pagarti, continuare a pagarti, perché altrimenti la gallina dalle uova d'oro non ce l'avrei più. Questo poteva essere un motivo per poter cercare di porre una regola a quello che dovrebbe essere una norma etica, morale. Naturalmente si tratterebbe di denunciare anche i tentativi di infiltrazione, perché in questo modo lo Stato può essere vicino all'imprenditore. Lei si augura che ritorni la norma originaria, cioè anche basta solo una non denuncia da parte di un'impresa e questo vuol dire essere esclusi dagli appalti? Io penso che si possa trovare una norma di compromesso. Da un lato non basta un semplice indizio, dall'altro è esagerato il rinvio a giudizio. Si può trovare una norma secondo cui viene senz'altro accertato il pagamento del pizzo e viene accertata l'esistenza dell'estorsione, dall'altro la mancanza di uno stato di necessità per cui qualcuno può aver agito per salvare sé o altri da un pericolo alla persona. Allora, con questi temperamenti io penso che si possa trovare una soluzione compromissoria, ma naturalmente sta al governo. E certo, sta alla politica, diciamo. Senta, lei di recente in un'intervista ha detto: la mafia e la politica adottano la stessa logica, occupano il territorio. Una frase, un'analisi molto dura, molto impietosa. Tra l'altro, di recente il procuratore capo di Napoli, Lepore, ha detto: 3 politici su 10 in campagna sono collusi con la camorra. Insomma, frasi passate anche un po' sotto silenzio. Secondo lei 3 su 10 in campagna o a livello nazionale, sì, lei si azzarderebbe a fare numeri percentuali? Intanto io volevo dire che non ho detto che la politica controlla il territorio come la mafia, ma ho detto che il metodo di intermediazione tra i bisogni della gente e chi ha il potere di soddisfare questi bisogni, il meccanismo è lo stesso spesso, e spesso i due fenomeni in certe regioni del nostro sud si sovrappongono, si assumono maggiore valore, maggiore potenza. Questo soltanto. Poi sotto il profilo delle percentuali io sono alieno da dare dati così vaghi, perché non so nemmeno se la percentuale è in difetto o in eccesso. A me anche il discorso di dire collusi, cosa significa? Significa tutto e non significa niente. Come dire coinvolti, cioè a me piace sapere il numero degli indagati, dei politici indagati, dei politici rinviati a giudizio, dei politici condannati. Per esempio lo vorrebbe, qualcuno dice il certificato penale alle elezioni, ci sono le elezioni imminenti, lei vorrebbe un'azione di un partito, di qualcuno che dicesse ci vuole nessuno rinviato a giudizio, nessuno condannato? Ma questo è un vecchio discorso che addirittura all'inizio degli anni 90 si è fatto pure in commissione antimafia con la presidenza Chiaromonte, io allora ero consulente, ma si vede che tutto questo specialmente in certe regioni non paga, nel senso che nonostante tutti i buoni propositi poi si vede che questa autoregolamentazione della candidatura e del voto poi non avviene e poi alla fine decidono i cittadini, quindi io si possono adottare delle precauzioni, ma poi alla fine sono i cittadini che votano e quindi avranno coloro che ritengono di dover votare. Certo, procuratore, le chiedo questo. Un suo, tra l'altro, omonimo, Tano Grasso, leader dell'antiracket, di recente ha detto, parlava in quel caso di Gomorra, del libro e del film, e ha fatto una denuncia di questo tipo. Il problema non è Gomorra, che è un'opera straordinaria, l'opera di Saviano, che ha acceso i riflettori, che mai più si spegneranno su una mafia, quella dei casalesi, che era meno conosciuta, almeno al grande pubblico. Ma il problema è il gomorrismo, cioè una sorta di retorica, di celebrazione del libro, del film che molti fanno per lavare le coscienze e basta. Secondo lei c'è questo problema in molti, non ovviamente negli operatori come lei, ma in molti che nell'uso della retorica? Certamente la retorica non è una enfatizzazione di quelle che sono le realtà, però bisogna, io vado sempre con l'aforisma di Gramsci, il pessimismo della realtà, l'ottimismo della volontà, nel senso bisogna dipingere la realtà così com'è, però fare di tutto in senso positivo, cioè pensare positivo, credere positivo che si possa cambiare. E questo nascondere la realtà è anche questo un male che forse in passato si è percorso, e quindi io ho questa posizione così di fatti reali che possano però essere superati dall'impegno, dalla dedizione, dal sacrificio che c'è da parte di tanti uomini della magistratura, delle forze di polizia. Noi aspettiamo che dietro tutto questo, ogni mattina, se voi che fate informazione sapete che c'è in qualche parte d'Italia un'operazione di polizia sì, antimafia, anche questa quindi, notte c'è stata, sì, appunto, quindi non c'è giorno in cui non c'è l'azione continua dello Stato, e allora noi aspettiamo che dietro, come un volano che incomincia a girare, girino tutte quante le istituzioni, la correttezza della pubblica amministrazione, sanità negli ospedali. Lei però ha detto di recente alla politica, chiederei anche molto più banalmente, la benzina per le macchine dei magistrati o degli agenti di polizia, di chi lavora, insomma, questo non è un problema. Non si possono fare le battaglie senza le armi, le nostre armi partono proprio da queste cose, anche minime. Certo, siamo in un periodo di recessione, comprendiamo che dobbiamo fare tutti dei sacrifici, difatti con i mezzi a disposizione sono encomiabili i risultati che si riescono ad ottenere in questo campo. Senta, le pagine del suo libro sono densissime di ricordi di Falcone, Borsellino, anche di ricordi per esempio del maxi processo. Leggete la parte del maxi processo in cui lei racconta anche le cose più spassose, perché si rise anche molto, bisogna dirlo, che avvennero non le voglio ricordare, il tempo è poco, ma ci sono degli episodi esilaranti davvero, di anche qui pro quo, di cose che avvennero che sono bene da raccontare, sono uno spaccato di storia. Le chiedo invece sul presente, se le dovessi fare una domanda secca, qual è la mafia più tutte sono pericolose, ma la più pericolosa, quella più invasiva attualmente? Io dico che per ora, per la sua potenza economica, è certamente la 'ndrangheta seguita dalla Camorra. La Camorra, quella parte dei casalesi, è appunto quella che è più vicina, fra l'altro, alla struttura della mafia siciliana. E quindi queste sono le emergenze attuali, e con una Cosa Nostra che continua ad essere presente, seppur indebolita dalle operazioni, dalla repressione. E riguardo al terribile terremoto dell'Aquila, lei ha messo dei procuratori molto validi per vigilare. C'è qualche timore? C'è qualche timore concreto che avete, oppure è il timore che c'è in tutte le ricostruzioni? No, guardi, concreto non c'è nulla, se ci fosse comunque non glielo potrei dire. In ogni caso le posso garantire che dove ci sono soldi da distribuire qualcuno cerca di presentarsi per esigere il conto. Questa è un'esperienza che abbiamo avuto in passato in alcune ipotesi di ricostruzione, e noi siamo lì, secondo le nostre funzioni istituzionali, a cercare di raccogliere informazioni nel caso in cui questo si possa verificare. Tutto qui. Ho ancora un paio di domande, procuratore. Lei nel libro, soprattutto alla fine, ricorda come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino siano due persone, due miti, due eroi, due colleghi, lei definisce, che sente sempre accanto a sé in tutti questi anni di opera. Qual è l'insegnamento, se ne ricorda uno, sui tantissimi che le avranno dato, di Falcone e Borsellino, che lei porterà sempre con sé? Beh, l'insegnamento è quello di andare avanti nonostante l'intuizione che ci sia un destino che ci attende, nel senso che certamente la nostra opera non è ben vista, ma non solo dai mafiosi, ma anche da tutto il sistema che gira attorno al sistema mafioso, diciamo militare. E quindi siamo, così come lo erano loro, convinti che possano intervenire delegittimazioni, che possano intervenire delle eliminazioni, diciamo, non fisiche, ma prima ancora da un punto di vista della tua azione. E quindi l'insegnamento è di andare avanti. Falcone diceva a Buscetta, dopo di me, se mi fanno qualcosa, ci saranno altri magistrati che continueranno, così come Borsellino era ben consapevole dei pericoli a cui andava incontro subito dopo la morte di Falcone. Aveva detto: Giovanni, tu sei il mio scudo, finché ci sei tu io sto tranquillo. Beh, sono dei casi appunto che mi stanno vicini, e soprattutto quando ci sono tanti momenti di delusione che mi danno la forza di continuare, così come Caponnetto, che lo zio Nino, che mi diceva proprio poco prima di iniziare il maxi processo, mi vedeva un po' preoccupato per la mole degli atti da studiare, per l'impegno che si doveva affrontare. Mi diceva: stai tranquillo, stai con la schiena dritta, la testa alta, e fai con coscienza il tuo dovere, vedrai che ti troverai bene. E l'ultima domanda è una cosa che mi arrovella da tempo: tra poco ci sarà l'anniversario di Falcone, poi Borsellino, voglio ricordare anche Rocco Chinnici a luglio, ma tante persone uccise dalla mafia. Si ricordano le persone uccise, le persone della scorta, per esempio, che sono rimaste vittime. Procuratore, perché non si ricordano mai, e si faticano anche a ricordarne i nomi, le persone che sono sopravvissute a quegli attentati? Penso all'autista di Falcone, penso all'autista di Rocco Chinnici, all'autista di Paolo Borsellino, che quasi devono scontare la colpa di essere sopravvissuti. Beh, questo è uno dei tanti mali della nostra società, che ha la memoria corta. Proprio perciò dobbiamo continuare a parlarne e fare della memoria la base per costruire il nostro futuro. Io la ringrazio, grazie al procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, di cui voglio ricordare il libro. È una lettura che secondo me dovete fare, ve la consiglio. È un lungo libro, intervista ad Alberto La Volpe. Pietro Grasso, si intitola Per non morire di mafia, Sperlin & Kupffer. Sono riassunti, se possibile, 30 anni di lotta in prima linea contro la criminalità organizzata. Allora, io saluto l'avvocato Domenico Romano Carratelli. Avvocato, buongiorno. Vediamo se in sei minuti riusciamo a condensare una storia di otto anni. Allora, 2001, lei tra l'altro è stato sottosegretario, è stato onorevole in passato, si candida nel 2001, quindi andiamo otto anni fa. 2001, lei dalle urne esce sconfitto da un primo risultato. Per quanti? 79 voti, credo. 79 voti. Dove? In Calabria. In Calabria, Vibone. Dopodiché lei dice: qua qualcosa non mi convince, la solita questione, schede annullate, fa la trafila e chiede, dice: guardate che dovete ricontare, perché secondo me ho vinto io, no? Sostanzialmente. Sì, chiedo che venga applicata la legge. E chi è che deve ricontare? La giunta per le elezioni? La giunta delle elezioni, perché la competenza, trattandosi di elezione parlamentare, di costituzionale diciamo appartenenza, come competenza alla Camera dei Deputati, quindi al suo organo, al suo deputato. E la giunta riconta, e pare che lei dalla riconta abbia vinto di 6 voti? Sì, il dato ufficiale è che io ho vinto per 6 voti. Però che succede? Che, quindi... Non succede niente, pensi che addirittura il relatore, che era un raffinato giurista che proveniva dalla Lega, sosteneva nella sua relazione, chiedeva che non venissi proclamato, perché lo scarto di voti fra me, che avevo vinto, e chi aveva perso, era poco. E nel contempo straordinario. Quindi sei voti non bastano. Non bastavano, però bastavano all'altro per restare deputato. E chiedeva che l'altro non venisse confermato deputato, però. Per cui... C'è un posto vacante. Ovviamente la giunta delle elezioni non accetta questa tesi, recepisce il dato che io ho vinto e avvia le procedure per la sostituzione del parlamentare che non aveva titolo. E però passa tutta la legislatura e lei... Praticamente io ho combattuto per 5 anni in un defaticante straordinario impegno, per cui ogni settimana... Io faccio l'avvocato, quindi quando ho deciso di fare questa cosa ho detto: farò l'avvocato di me stesso, e quindi con impegno totale. Certo. Non mi pagavo, oltretutto. E comunque diciamo che lei fa tutta la legislatura e non viene proclamato eletto. Non vengo proclamato. Poi dopo, insomma, siamo nel 2001, quindi 2006, poi ci sono state le elezioni che hanno portato alla vittoria di Prodi. Non sono stato candidato, ovviamente, questa cosa cosa ha comportato per la mia vita, per la mia famiglia. Aveva un po' dato fastidio forse, insomma, nel 2001. No, questo non lo so, insomma, so che la norma non mi ha consentito, la normativa vigente non mi ha consentito, non mi ha dato la garanzia di aver applicato la legge e il diritto di giustizia a cui ogni cittadino. Poi insomma siamo nel 2009, insomma siamo 9 anni dopo. Lei ha detto: sapete che c'è, io non mi avete mai proclamato eletto, io ne avevo diritto e adesso chiedo al Ministero degli Interni 8 milioni di euro. Sì, io chiedo una cifra che sia, che compensi, diciamo, gli emolumenti che non ha avuto. Che sono quanto? Circa 1 milione. 1 milione di euro, per sappiamo i parlamentari. No, io non ricordo con precisione quanto, ma insomma circa 1 milione di euro. Poi chiedo la perdita di chance, cioè che era la possibilità di essere riconfermato, perché io ho fatto una sola legislatura di parlamentare e la normativa interna mi favoriva, nel senso che non avendo fatto più di 3 legislature sarei stato ricandidato probabilmente, e quindi viene chiamata questo in gergo giuridico perdita di chance, e quindi un'altra legislatura che certamente avrei fatto. E poi la perdita, diciamo, della visibilità politica, io potevo, diciamo, svolgere ancora, ero un politico in ascesa, diciamo, tra virgolette. Ma lei anche è vero che ha quantificato danni morali, insomma, certo, sono in depressione, ho letto sui giornali, Come lei capisce, allora io le racconto, mi permetto di annotare un fatto privato, io ho avuto nel 2000 la perdita di mia moglie, il che ovviamente mi ha distrutto la vita privata, la vita sentimentale, mi ha messo in una situazione, come è comprensibile a tutti, ha messo me e la mia famiglia, una perdita prematura. Dopodiché, se dopo un anno mi ritrovo quest'altra batosta, lei che cosa, come pensa che un uomo possa reagire? Io credo che sia normale che uno possa avere... Beh, insomma, sono due cose ovviamente ben diverse. Insomma. Diverse, ma che si sposano e si mettono. Per cui, da un lato la vita privata, la vita familiare, la vita sentimentale, dall'altro la vita pubblica, la vita lavorativa, la vita d'attività. Ma accidenti, ma lei nella politica, voglio dire, ci credeva e ci crede molto allora? Ci credo ancora. Io da quando sono dall'università che mi occupo di politica, per una passione invincibile purtroppo per me, perché se avessi fatto l'avvocato probabilmente sarei vissuto meglio, insomma. Purtroppo la mia passione era questa, e quindi queste sono state poi alla fine le mie conseguenze. Proprio per non chiudermi in casa e per combattere, cosa che è avvenuta per un certo periodo, ho fatto questa lunga battaglia, e adesso a conclusione di questa lunga battaglia... Presenta il conto! Adesso presenta il conto. Credo che sia anche giusto che chi ha sbagliato mi risarcisca di tutto questo che ho passato, che risarcisca la mia famiglia, che risarcisca la mia onorabilità, che risarcisca il mio diritto ad essere cittadino, un cittadino che si impegna e si appassiona al suo lavoro, che vuole lavorare e che gli viene impedito da una normativa che non permette e non garantisce giustizia. Accidenti, ma quei 6 voti dannati, no? Che vogliamo fare? E che quante volte ci avrà pensato? Quante notti non avrà dormito per quei 6 voti? Dico. Lei capisce chiaramente, come ognuno capisce di chi ci ascolta, cosa questo fatto possa significare. Talvolta non dormiamo per piccoli disturbi quotidiani, si immagina un fatto così, diciamo, di coinvolgimento. Lei si è sentito deprivato proprio di un ruolo che era suo, che l'aveva vinto, l'aveva conquistato. Senta, ma il reazioni dal Viminale, il Ministero degli Interni, questi 8 milioni di euro? Dopo ho saputo che ha chiesto, il Ministero ha chiesto alla Giunta delle Elezioni una relazione sui documenti relativi al mio caso. La relazione, so che la Giunta li ha mandati con una relazione che... Nella seduta si è discusso, nella seduta del 29 aprile la Giunta delle Elezioni ha discusso il mio caso e ha deciso di mandare giustamente i documenti al Ministero. Senta, un'ultima domanda, avvocato. Lei sa che insomma tutta questa battaglia, se però le danno un risarcimento dal Viminale, poi sono soldi nostri, cioè soldi pubblici. Sono anche soldi miei. Anche suoi, però lei verrebbe ripagato, soldi. No, sono soldi miei, perché anche io pago le tasse. Ho capito, pago, ma se mettiamo che le danno 8 milioni di euro, è un bel investimento, ha fatto con le tasse che ha pagato. Ma questo non cambierà certamente la mia vita, perché ho un'età in cui, certo, può essere un aiuto alla mia famiglia, può essere una cosa importante per la mia famiglia, e mi pare questo un motivo giusto per cui io combatta. oltre che per l'affermazione del mio di un diritto. No? Avvocato, io la ringrazio, le prometto che la seguiremo, anzi ai nostri numeri ci informi se dal Viminale battono un colpo, insomma. Domenico Romano Carratelli, grazie, avvocato di Vibo Valenza, insomma, fa questa battaglia dal 2001 per un'elezione che dice mi spettava al seggio del Parlamento. Ci fermiamo qui, tra poco Giuliano Ferrara, ospite del Ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini. Grazie a tutti, a domattina.